lati dalle tue idee su sponde di estate notturno e da strada resta così immagina tutto il silenzio che c'è disinnesca me Pezzami le mani prima che prendano forza capaci di sedurti con un'abile mossa resta così immagina tutto il silenzio che c'è illuditi le parole si spaccano anarchiche e feroci soffiando su malinconie assolvo tutti i miei silenzi, la pioggia di Parigi invecchia nel suo stesso suono, è un risveglio impossibile in questa silenzio che c'è.